2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire insieme come la tecnologia ci cambia la vita, spesso ce la cambia in meglio, però ci sono a volte anche alcuni problemi. Saluto Fabio Cantadori che si occupa della parte tecnica, Giorgio De Luca che ci aiuta in regia. Il nostro numero verde 800240024 per parlare con noi. Potete utilizzare anche gli SMS, Facebook, Twitter, l'email 2024@radio24.it. Questa settimana, in modo particolare tra martedì e mercoledì, tre grandi network televisivi nazionali e due tra le principali banche della Corea del Sud sono state messe KO da un attacco informatico che potrebbe essere stato lanciato dalla Corea del Nord. Ma in questo ambito ci interessa poco sapere da dove è arrivato questo attacco, quali sono le tecniche utilizzate, ci interessa più capire se una cosa del genere può accadere anche nel nostro paese. Tra l'altro, notizia di questa settimana, è stato pubblicato un decreto che diciamo dà l'avvio anche in Italia a tutta una serie di procedure per costituire alcuni organismi che dovrebbero entrare in funzione nel momento in cui dovesse esserci un attacco informatico anche nel nostro paese, i famosi CERT che esistono anche in altri paesi europei. Quindi ci sono alcune novità, qualcosa si muove, e tra l'altro recentemente, proprio in occasione della presentazione di questo provvedimento di legge, il presidente del Consiglio Monti aveva detto: attenzione, perché un attacco informatico potrebbe mettere in ginocchio il paese. Alessio Pennasilico, bentornato 2024, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Alessio Pennasilico fa parte del Comitato Tecnico Scientifico del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, è un hacker etico ed è il Security Evangelist per Alba ST. L'abbiamo invitato altre volte per fare il punto della situazione. Innanzitutto due parole su quello che è successo in Corea del Sud. Ricordiamo che la Corea del Sud è un paese tecnologicamente molto avanzato, è un paese interconnesso perché è anche noto per la fibra ottica che corre in buona parte del paese. Che cosa è accaduto? Contemporaneamente, in maniera piuttosto inusuale, si sono fermati, quindi non erano più in grado di erogare i loro servizi, sia diverse banche sia diverse emittenti televisive. E la cosa è abbastanza balzata all'occhio della comunità internazionale proprio per il grande coordinamento che c'è stato su questa azione, perché tante cose si sono fermate tutte assieme, quindi chi voleva usare la propria banca non ci riusciva, capisci che dà fastidio. Sì, diciamo che non è successo nulla di grave, nel senso che non si sono persi soldi, non sono stati rubati soldi, è successo che magari uno andava al banco ma te non poteva ritirare soldi, oppure non poteva visualizzare il proprio conto bancario online, però nessuno ha rubato denaro. Di sicuro però quello che si può dire è che dietro a tutto ciò c'è stato un attacco ben progettato, e questo potrebbe essere un esempio di una cosa che potrebbe amplificarsi in modo più grande. Beh, sicuramente il panico creato è stato piuttosto importante. Immaginiamo se contemporaneamente qui in Italia le cinque maggiori banche risultassero tutte indisponibili contemporaneamente, tra la popolazione insomma si diffonderebbe una certa sfiducia. Poi a posteriori poter dire: certo, non è stato rubato del denaro, tranquillizza, ma finché questa notizia non arriva, nel momento in cui accade, quindi quando sono uscite le prime notizie, era proprio ci sono tante cose che non stanno funzionando correttamente, quindi sì, lo scenario è sicuramente anche quello che stavi delineando, dell'attacco molto organizzato in un paese che politicamente ha una situazione complessa, quindi sicuramente subito le prime ipotesi sono state di un attacco da parte di un paese ostile piuttosto che di un'azione politica coordinata contro di loro. Senti, una cosa del genere può accadere anche in Italia o in generale in Europa? Ma tendenzialmente sì, nel senso che il tolto che ci sono diverse statistiche che raccontano molto bene questo, è uscito recentemente il rapporto Clusit sullo stato della sicurezza, nello specifico in Italia nel 2012, che racconta un incremento degli attacchi che hanno avuto un impatto sul business delle aziende e delle organizzazioni che ha subito un aumento davvero considerevole. Contemporaneamente, sempre in questi giorni, è uscito un altro studio su internet che è stato fatto un censimento delle macchine vulnerabili e, tolto l'abnorme numero che ora non ricordo, la grande concentrazione è evidentemente in Stati Uniti, Europa, India e quella parte di Asia più tecnologizzata, quindi sicuramente le macchine che possono essere compromesse sono tante, quindi il tipo di attacco che è stato portato in Corea sicuramente può essere replicato in altri stati verso altre organizzazioni nello stato attuale delle cose. Bisogna essere degli esperti, perché naturalmente in questo caso si dice che dietro a questa azione ci sia un governo e quindi ci sia un'organizzazione che può permettersi mezzi tecnologicamente molto avanzati, team che mettono assieme, oltre che tecnologia, anche competenze di un certo tipo, o possono farlo anche alcuni ragazzini? Ma allora, sul singolo attacco, purtroppo la risposta è che spesso sono tecnologicamente possibili anche a persone non particolarmente esperte. In alcuni casi ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni, molti li hai anche trattati tu in trasmissione, tipo Stuxnet, sicuramente emerge il fatto che ci fosse qualcuno alle spalle che ha speso una discreta quantità di denaro per creare della tecnologia nuovissima a cui molti non potevano difendersi subito. Contemporaneamente, quello che colpisce nel caso specifico della Corea non è tanto il quanto è avanzato l'attacco, perché tutto sommato non lo è, colpisce di più il quanto è stato coordinato per colpire più obiettivi contemporaneamente, quindi ha colpito più sul lato organizzativo che non tecnologico come attacco. Sì. Senti, adesso ti faccio una domanda da esperto osservatore, anche da membro del Clusit, che lo ricordiamo è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, sul grado di consapevolezza del paese, sia a livello politico sia a livello di infrastrutture critiche, quindi di tutte le aziende che in qualche modo erogano energia, telefono, internet, gas, acqua, eccetera eccetera. Perché noi stiamo, e tra l'altro 2024 io spesso dedico attenzione a questo tema, però siamo in una situazione in cui finché non succede nessuno ne parla, comunque pochi si preoccupano. Qual è il tuo giudizio dello stato del paese? Allora, intanto voglio partire con una nota positiva. Sicuramente negli anni la situazione sta evolvendo per il meglio, nel senso che questa consapevolezza del rischio e di che cosa è necessario fare è sicuramente in crescita. Purtroppo portare avanti un attacco efficace è estremamente economico, mentre costruire le difese per potersi difendere non è né così economico né banale anche da un punto di vista organizzativo, quindi purtroppo c'è ancora molto lavoro da fare. Quello che colpisce molto spesso, seguendo questi temi da vicino, è il quanto magari altri stati molto spesso sollevino una bandiera rossa dicendo attenzione, sta succedendo qualche cosa di malvagio del quale ci dobbiamo preoccupare, è una situazione che in Italia raramente si è venuta a creare. Quindi gli scenari sono due: il primo è nessuno ci sta attaccando, il secondo è sta succedendo anche a noi ma nessuno se ne sta accorgendo. Temo che siamo più vicini al secondo scenario che non al primo, però ripeto, siamo in netto miglioramento e in crescita da questo punto di vista rispetto al passato. Senti, è un problema di tecnologia o di consapevolezza, cioè di cultura, di organizzazione? Cioè ci sono le tecnologie per proteggersi, diciamo, non dico al 100% perché, come diciamo ormai da 13 anni, la sicurezza totale non esiste, ma ci si può avvicinare. Allora, la tecnologia di fatto esiste. Molto più spesso, guardando la statistica del come vanno a finire determinate cose, il problema non è tanto della tecnologia non utilizzata o usata nel modo sbagliato, quanto proprio di come è stata disegnata una soluzione, piuttosto del come sono state fatte le cose. Quindi gli strumenti li abbiamo, il problema è appunto rendersi conto di che tipo di problema può esistere e prendersene cura già in fase di disegno della soluzione, di implementazione, e non trovarsi poi a dover inseguire un'emergenza alla fine perché non si sono fatte delle cose in anticipo. Quello è il problema troppo spesso. Se ti faccio un'ultima domanda, ti vuoi esprimere sulle banche italiane? Perché qua stiamo parlando di, nel caso della Corea del Sud, di banche e di TV. Diciamo che mi preoccupo poco se le TV vengono spente da un attacco digitale, anzi, potrebbe anche essere una buona notizia per le radio. Ma l'argomento è decisamente spinoso e rischio di attirare le ire di diverse persone. Ripeto, il problema credo che non sia esclusivamente delle banche, ma riguardi un po' tutte le infrastrutture di una certa complessità. Come dicevo prima, se gli strumenti esistono, calarli all'interno di una struttura complessa dove non si tratta banalmente di installare un programma, ma di gestire tutta una serie di problematiche, sicuramente delle aree di rischio esposte rimangono. Quindi di fronte ad un attaccante sufficientemente motivato, con abbastanza denaro e con sufficienti competenze, ed esistono, temo che in alcuni casi i risultati analoghi si potrebbero raggiungere anche su banche, insomma, vicine a noi qui in Italia. Bene, grazie ad Alessio Penasilico per essere stato con noi. Alessio, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, a presto. Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Dicevo prima di parlare con Alessio Penasilico che è stato pubblicato, aspettavamo da tempo, questo decreto che prevede la costituzione anche in Italia dei CERT, che sono i Computer Emergency Response Team, quindi dei team coordinati a livello nazionale per rispondere e coordinare le varie entità che riguardano anche le aziende private che erogano certi servizi, come ad esempio le banche, in caso di attacco digitale. E questa è sicuramente un'altra delle buone notizie. Questo è 2024, parleremo nel corso della nostra puntata tra poco di open data, quindi di dati aperti della pubblica amministrazione, e anche in questo caso ci sono delle novità di questa settimana sicuramente molto interessanti sia per i cittadini sia per la vita democratica dei cittadini, ma anche per il business, perché se ci sono più informazioni libere che vengono messe a disposizione in modalità aperta dalla pubblica amministrazione, bene, su quei dati ci si possono anche costruire business. Parleremo anche di mobilità intelligente, di come stanno cambiando alcuni settori e alcune modalità. Ne parleremo attraverso due esempi, ma poi da quegli esempi uno può immaginarsi mille altre strade. 2024. Riprendiamo questa puntata. Abbiamo parlato di quello che è accaduto in Corea del Sud. Lì ci sono anche delle tensioni geopolitiche che fortunatamente non viviamo in Europa, ma è sempre possibile un attacco digitale sia da parte di uno Stato ma anche da parte di organizzazioni di vario tipo. A proposito della situazione italiana, ne abbiamo parlato recentemente, abbiamo fatto sentire un paio di settimane fa un'interessante intervista a Mikko Hipponen, che è responsabile della ricerca di F-Secure. Un pezzo di quell'intervista, che non vi avevamo fatto sentire per questioni di tempo, riguardava la situazione italiana a proposito di sicurezza digitale. Ecco che cosa ci ha risposto. We have just released our latest statistics on the global threats, and Italy. Abbiamo appena pubblicato le nostre ultime statistiche sulle minacce globali e l'Italia balza all'occhio quando osserviamo i dati sui Trojans che attaccano i sistemi bancari. L'Italia, con gli Stati Uniti, è il paese più colpito al mondo dai malware nelle reti bancarie. Questi virus hanno l'obiettivo di rubare denaro dai conti correnti online e non lo fanno attraverso un attacco diretto alla banca, che sarebbe piuttosto difficile. Lo fanno invece violando i computer dei clienti della banca, degli utenti finali o delle società clienti. So you get infected on your your home computer or on your corporate computer. Quindi viene infettato il PC di casa o del lavoro. E quando si effettuano delle operazioni di online banking da questo o quel terminale, i Trojans modificheranno la sessione. So for example, if you're paying a bill, quindi, per esempio, se si sta pagando una bolletta, i soldi verranno spostati non sul conto del legittimo destinatario, ma su uno diverso, oppure verranno ordinate delle transazioni extra non richieste dall'utente. In questo momento ci sono ben 20 banche italiane che sono colpite da questi tipi di Trojans. Abbiamo ovviamente l'elenco completo di queste banche, ma non voglio fare nomi adesso. Ciò che posso dire è che la maggior parte dei sistemi di online banking possono essere bypassati se gli utenti effettuano le operazioni da un computer infetto. If users are doing their online banking from an infected computer. Naturalmente è importante specificare e sottolineare che le banche sono attaccate, ma sono attaccati i sistemi, ma le banche non hanno nessun tipo di responsabilità, anzi le banche stanno facendo moltissimo per proteggersi. Per parlare della situazione italiana avevamo invitato le due principali banche italiane, ovvero Unicredit e Intesa, che entrambe hanno declinato l'invito. Raramente i nostri potenziali ospiti declinano l'invito, ma stiamo parlando di una situazione sicuramente molto delicata, ma era anche una buona occasione per tranquillizzare le persone. Ripeto, le banche stanno investendo molto, stanno facendo molto, come diceva Pennasilico, non si può pensare di essere immuni da questi attacchi, ma soprattutto i problemi principali stanno dalla parte degli utenti, che magari non hanno il computer ben aggiornato e ben protetto, e allora da quel computer viene attaccato il sistema di home banking. Quindi ricordiamo l'importanza di aggiornare i software a bordo di PC, di smartphone, di tablet, quindi tutti i software dal sistema operativo a tutti gli altri software, e un'altra cosa importante è avere a bordo, e anche quello va sempre aggiornato, un buon antivirus. Una cosa importante da sottolineare tutte le volte che si parla di questi scenari, beh, ricordate che comunque il mondo digitale è più sicuro del mondo analogico, perché alcuni possono, sentendo queste cose, dire: ah, vedi, digitalizzando tutto, avere il conto bancario, che cosa succede? No, vale la stessa regola. Se uno lascia sul tavolino del bar il bancomat con magari il PIN scritto a penna sopra, beh, insomma, sapete anche voi quello che può succedere. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo da Tiscali, che ha presentato un nuovo motore di ricerca chiamato iStella, quindi Stella con la i davanti, un progetto tutto made in Italy che punta a valorizzare soprattutto il patrimonio culturale italiano. Il nuovo servizio è raggiungibile andando su www.istella.it, quindi vi invitiamo a provarlo. La prossima settimana ne parleremo più ampiamente, perché sarà con noi Renato Soro per parlare di questo progetto e anche degli altri progetti di Tiscali. Digital News. YouTube ha annunciato di aver raggiunto il miliardo di utenti unici al mese. YouTube è stata creata da 3 ex dipendenti di PayPal 8 anni fa e nel 2006 venne acquistata da Google per 1 miliardo e 650 milioni di dollari. Digital News. E probabilmente questi 3 dipendenti in alcune occasioni avranno detto: beh, se avessimo aspettato un po' avremmo guadagnato altro che 1 miliardo e 650 milioni. Allora, è stato un successo meno esplosivo quello di Twitter, almeno fino a questo momento, che ha festeggiato questa settimana il 7° compleanno. Twitter ha nel mondo quasi 300 milioni di utenti attivi. Dopo le indiscrezioni che vorrebbero Apple al lavoro su un iWatch, quindi un orologio moderno fatto con uno schermo touch, eccetera, eccetera, allora le conferme di un prodotto simile sono arrivate anche da Samsung e anche da LG. Allora, ora il Financial Times scrive che anche Google sarebbe al lavoro sullo sviluppo di uno smartwatch. Union Camera ed Eutelsat hanno firmato un accordo per favorire l'accesso ad internet via satellite a quelle aziende che hanno sede in zone talmente sfortunate da non essere raggiunte nemmeno dalla DSL o nemmeno dall'Hyperlan o dal 3G e tra poco dal 4G. Allora, il protocollo prevede la promozione da parte di Union Camera di iniziative dirette alle camere di commercio volte a diffondere la banda larga satellitare anche attraverso bandi per l'erogazione di voucher alle imprese per l'installazione di supporti di collegamento. Digital News. Ricordiamo però che l'ultima ratio, cioè l'ultima spiaggia, è proprio il satellite. Prima ci sono tutte le altre tecnologie, quindi se non c'è il cavo, ci sono moltissimi servizi diffusi sul territorio di tecnologie Hyperlan. Eolo è sicuramente il più grosso, ma ci sono tanti operatori in giro per l'Italia, e poi ci sono anche le tecnologie di telefonia cellulare, perché ricordiamoci sempre che, nonostante quello che dicano gli operatori dei satelliti, quindi Eutelsat e SES Astra, che fanno un ottimo lavoro, ma il segnale deve fare 36.000 km andare, 36.000 km a tornare, e poi si carica la pagina web che fa 36.000 km ad andare e 36.000 km a tornare, quindi tutto il resto è da preferire, però sicuramente questa è una ottima tecnologia quando non c'è il resto. Parla di internet anche la Banca d'Italia, che sprona gli istituti italiani a fare maggiore ricorso alla tecnologia. In Italia ci sono troppi sportelli bancari, dice Banca Italia, e il numero, pensate, nell'ultimo ventennio è quasi raddoppiato. Bisogna invece usare di più internet, con risparmi stimati nell'ordine del 30%. I piani dei principali gruppi non sembrano conformi a questi obiettivi. Allora, ultima notizia, ce la facciamo a stare? Non ce la facciamo, allora la facciamo tra poco, ve l'anticipo brevemente, perché il Fondo Ambiente Italiano, il FAI, vi invita sia oggi che domani alle giornate di primavera del FAI, appunto. È una bellissima iniziativa e quest'anno c'è una novità che ci riguarda, perché solitamente 2024 con l'arte e la cultura c'entra poco, ma da quest'anno c'è anche un'app e un'applicazione per smartphone. Ne parleremo tra poco, perché è un'app che fa qualche cosa in più oltre a farci vedere i luoghi e i territori e le fotografie e darci informazioni. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Questo è 2024, le 16:08, il nostro numero verde per chiamarci 800240024. Fabio Cantadore si occupa della parte tecnica, i vostri sms 349-238-6666. Rispondo ad alcuni ascoltatori che scrivono a proposito della sicurezza bancaria: ma se uno usa il token, come fanno gli hacker a fare disposizioni fraudolente? E non c'è solo questo ascoltatore che scrive un messaggio del genere, ci sono altri che fanno riferimenti a questo tipo di tecnologia. In effetti questo è un sistema sicuro. C'è chi ci chiede se è mai accaduto che questi token che generano password usa e getta sono stati mai bucati. Vado a memoria, negli Stati Uniti mi pare che sia successo un caso di alcuni token che sono stati riprodotti perché è stato bucato l'algoritmo che genera questo tipo di password, ma generalmente questi sistemi sono piuttosto sicuri. Enrico da Roma giustamente scrive che nel 2024 non c'entri niente con la cultura, non si può dire, perché anche la cultura informatica e digitale sono appunto culture. Ha ragione Enrico, io ho fatto riferimento poco fa alla cultura perché il Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI, ha organizzato per oggi e domani la 21esima edizione delle giornate del FAI. Quest'anno c'è una novità, perché c'è anche un'app, e quindi per questo motivo ci interessa di più. Ce ne ha parlato Valentina Pasolini, che è la responsabile della promozione del FAI. Abbiamo creato l'applicazione per rendere sempre più facile e accessibile la visita ai 700 beni che durante questo weekend noi apriamo in tutta Italia, e quindi abbiamo creato uno strumento tascabile che ognuno può portare con sé e che può utilizzare per creare i suoi itinerari, e quindi per scoprire quali sono i luoghi più vicini a lui aperti alla visita, perché l'applicazione consente la geolocalizzazione di tutti i beni aperti. Basta un semplice tocco sul proprio telefonino per scoprire, insomma, appunto quali luoghi sono più raggiungibili, sono vicini, quindi si vede una mappa con tutti questi luoghi. Oltre a questo, che cosa è possibile fare? Sì, la mappa, l'applicazione è consultabile attraverso la mappa, ma abbiamo anche deciso di inserire la funzione della realtà aumentata, che permette anche in modo divertente, insomma, di puntare il proprio telefonino in qualsiasi direzione protezione e poter vedere direttamente sul proprio schermo quali sono i luoghi aperti andando in quella stessa direzione e a che distanza raggiungerli. Quindi magari uno si trova in una piazza, non sa esatto. che dietro a un palazzo di quella piazza c'è uno dei luoghi aperti, aperti grazie appunto a questa iniziativa del FAI, e la mappa glielo fa vedere. Quindi esattamente, basta girare su se stessi puntando il telefonino verso ciò che l'utente vede e in questo modo scopre tutto quello che lo circonda di aperto. E questo è sicuramente interessante anche perché l'utilizzo della realtà aumentata tramite smartphone e tablet è un uso molto utile per le guide interattive, quindi mentre si visita una città o addirittura un museo, queste tecnologie, cioè la realtà aumentata che mette informazioni su un display oltre a quelle che noi vediamo normalmente, è sicuramente molto, molto interessante. Valentina Pasolini ha più volte fatto riferimento a un'app facile, accessibile a questi luoghi aperti. Allora, a proposito di accessibilità e di cose aperte, ci sono alcune novità che riguardano i dati della pubblica amministrazione, e sono tantissimi, che proprio arrivano da questa settimana, novità che riguardano questa settimana. Lorenzo Benussi fa parte della task force del ministro Profumo per le politiche digitali, bentornata 2024. Buongiorno a tutti. A proposito di novità, perché dico che riguardano questa settimana? Ma perché da questa settimana, grazie al decreto legislativo 179-2012, convertito con la legge 221 del dicembre 2012, dal 19 di marzo i dati presenti su internet, dei dati pubblici italiani presenti su internet, si possono utilizzare. Chiunque li può prendere, può creare delle applicazioni come quelle di cui stavate descrivendo prima. Quindi significa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili online i propri dati? Sì, esattamente. Cioè viene introdotta con questa norma un'innovazione di processo che obbliga le amministrazioni ad adottare nel tempo un processo che permetta di rendere disponibili su internet i dati che le pubbliche amministrazioni producono, che come possiamo immaginare sono moltissimi, dai dati sul traffico, ai dati sulle anagrafi, ai dati sulla cultura, e renderli disponibili su internet vuol dire metterli a disposizione in luoghi e formati facili, rintracciabili e che si possano riutilizzare. Con l'idea che questi dati sono un valore, sono un asset, diciamo, utilizzando un termine inglese, comunque un valore che i cittadini e le imprese possono fare utilizzare per creare servizi innovativi. Questi dati dovrebbero già nascere aperti. Esattamente, esattamente. L'idea è che d'ora in poi tutti i dati che le amministrazioni pubblicano, e sono molti ovviamente a seconda dei vari adempimenti che le amministrazioni hanno, di default, per cui il termine inglese che si utilizza è open by default, devono essere messi a disposizione di tutti in formati adatti al riutilizzo, che sostanzialmente vuol dire non un testo statico, ma delle tabelle o comunque dei formati disaggregati il più possibile, senza entrare nei tecnicismi, che però mi permettano ad esempio di prendere i bilanci di un comune, magari il mio piccolo comune che non ha un'attenzione mediatica, per cui i bilanci non sono pubblicati sui grandi giornali, ma prendere i suoi bilanci e metterli vicino ai bilanci di un altro comune, in modo da poter fare delle comparazioni. Questo è estremamente importante, non si parla soltanto di accesso all'informazione, ma proprio di riutilizzo, un nuovo, se vogliamo, un nuovo diritto dei cittadini. Stiamo parlando di dati che sono o saranno leggibili da tutti i cittadini, quindi io vado su un sito internet di un comune, perché una delle cose che viene più spesso alla mente è il proprio comune, ma qualsiasi altro ente pubblico, e posso leggere e imparare cose nuove, o stiamo parlando anche di dati che sono magari difficilmente leggibili da un umano, ma sono dati che poi vengono messi in pasta ad una macchina e che ne so, può essere creata un'applicazione per smartphone che qui, quella sì, che è leggibile dall'uomo. Esattamente lo secondo scenario, diciamo. Sono dati che possono anche essere tranquillamente consultati dal singolo cittadino, però il meccanismo è pensato perché vengano messi a disposizione in modo tale che terze parti, per cui imprese o associazioni o gruppi di cittadini, li utilizzino per fare delle app, e allora quelle sì saranno a disposizione di tutti. Anche qui facciamo degli esempi, i dati sui prima si parlava di beni culturali proprio in trasmissione, i dati sui beni culturali, faccio appunto alcuni esempi, gli orari di apertura, la geolocalizzazione, alcune informazioni su che cosa contengono questi beni culturali, vengono messi a disposizione non tanto perché il singolo cittadino, la signora vada sul sito e veda già delle cose, ma perché altri, aziende o singoli sviluppatori, li prendano e facciano un'applicazione, un sito internet o un servizio. Bene, riprendiamo tra un minuto. Lorenzo, rimani con noi. 2024. Tra poco parleremo di mobilità intelligente 2024 con due esempi. UbiCabs da Londra, una app per prenotare un'auto, non solo taxi, non stiamo parlando di taxi, ma prenotare un'auto, ma la stessa cosa vale per i taxi, e anche un'app, un sito internet, BlaBlaCar, che serve per condividere passaggi in auto. Ne parleremo per capire come cambia la mobilità anche dei cittadini e come queste tecnologie possono farla cambiare. Poi da lì uno prende spunto e magari utilizza le stesse dinamiche per altri settori. Stiamo parlando di open data, quindi di dati aperti, accessibili, messi a disposizione della pubblica amministrazione, e proprio con quello che stavo dicendo poco fa mi vorrei ricollegare parlando con Lorenzo Benussi, che fa parte della task force del ministro Profumo per le politiche digitali. Uno degli obiettivi, e mi sembra lodevole, è che si possano costruire delle vere e proprie, prima start-up, delle piccole aziende che magari speriamo diventino grandi, che possano utilizzare questi dati messi a disposizione della pubblica amministrazione. Possiamo fare anche degli esempi? Ma sì, sicuramente. Un esempio l'hai proprio introdotto tu, è quello sui trasporti. L'esempio che di solito viene fatto e che è più famoso, uno dei primi, è del sistema di trasporti di Boston, che ovviamente produce, tutti i sistemi di trasporti urbani producono un sacco di dati. A Boston hanno deciso a un certo punto di metterli a disposizione in modo corretto, per cui con il processo, diciamo, giusto, in modo che questi dati siano facilmente utilizzabili, sono spesso dati anche in tempo reale, per cui dati particolari, hanno deciso di metterli a disposizione, e nel giro di poco tempo sono nate più di 30 differenti app per telefonino per gestire la mobilità urbana e in parte extraurbana nell'area di Boston. Questo per cui con un semplice sforzo da parte delle amministrazioni, tra l'altro uno sforzo marginale, perché questi dati già esistono all'interno dell'organizzazione, il punto è semplicemente metterli a disposizione all'esterno, con un piccolo sforzo non è stata creata un'app, ma 30 app, alcune delle quali magari danno soltanto gli orari degli autobus, altre invece fanno mix di servizi, per cui possono essere orari degli autobus più servizi di car sharing per condividere l'autovettura, oppure servizi di bike sharing con le mappe ciclistiche per chi vuole andare in metropolitana e in bicicletta. Cioè, il punto importante secondo me è che i dati, noi viviamo in un mondo di dati, e questi dati sono elementi fondamentali per costruire applicazioni che ci aiutino in un certo senso a navigare la realtà. Prima parlavate di realtà aumentata, proprio qualcosa di questo tipo. E siccome è un grossissimo detentore di dati la pubblica amministrazione, e questi dati noi in un certo senso li abbiamo già pagati, il concetto è proprio di dire: ok, c'è questo grande valore, mettiamolo in condivisione con tutti, con i privati e con le imprese, per creare nuovi servizi sempre più evoluti e probabilmente sempre più diffusi. La pubblica amministrazione in nessuno di questi casi potrà chiedere soldi in cambio? Questo è un tema delicato, in pochissimi, se vogliamo una semplificazione, in pochissimi casi. Ci possono essere dei casi in cui la messa a disposizione dei dati è particolarmente faticosa o richiede dei servizi ulteriori rispetto alla diciamo alla semplice creazione di un link su un sito web, dove in quel caso si può ragionare, però sempre con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, su l'eventuale un eventuale prezzo. Però questo rimane molto preciso nella norma, sia europea che italiana, un'eccezione particolare. La regola è che i dati devono essere di default, per cui di base, disponibili gratuitamente a tutti. Un'ultima domanda riguarda la pubblica amministrazione italiana. Esiste la legge, esistono le regole, esistono questi standard, queste linee guida che abbiamo descritto. Poi queste cose si faranno, si stanno già facendo? Beh, in alcuni grandi comuni già lo si sta facendo, giusto? Sì, sì, assolutamente sì. Beh, non è una cosa banale, perché noi andiamo a intaccare il processo di gestione delle informazioni della pubblica amministrazione, che è un po' andare a intaccare il modo in cui funzionano, perché alla fine l'informazione governa anche l'organizzazione. Per cui non è sicuramente un processo immediato, ci vorrà del tempo, però è importante che noi consideriamo i dati come un valore nazionale strategico, perché sapere come diciamo, si muovono le persone, si muovono i grandi sistemi all'interno di una nazione è qualcosa che può diventare veramente strategico, e sempre di più anche nei rapporti internazionali è strategico. Per cui è importante che il Paese si attrezzi per utilizzare anche questa risorsa al meglio. Sì. Ricordo che forse nella puntata di qualche mese fa in cui ti abbiamo ospitato, un esempio che è stato fatto e mi sembra un bel esempio, era un'applicazione o comunque un sito internet che, proprio basandosi su dati aperti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, aveva fatto la mappa del crimine all'interno di una città, e questo aveva poi un impatto su tante cose, non ultimo il mercato immobiliare, perché naturalmente io posso scegliere anche sulla base di quel dato dove andare ad abitare. Si potrebbe fare sul rumore, perché ad esempio questa è una dinamica importante. Questo è un po' lo scenario in cui ci stiamo muovendo, e direi che in questo caso i dati saranno talmente tanti tra qualche anno che bisogna far lavorare la fantasia. Certo, ma proprio tornando su questo tuo esempio, che forse è molto chiaro, immaginiamo di avere la mappa dell'inquinamento, la mappa della mobilità, la mappa del crimine e la mappa del rumore. Sono tutti dati che potenzialmente mi interessano molto quando acquisto casa. Esatto. Lorenzo, grazie per anche il lavoro che hai fatto assieme alla Task Force, e buon lavoro, a presto. Grazie, a presto e buon pomeriggio. Sono le 16:23 minuti. Lorenzo Caffarri, fondatore di Ubicaps, siamo a Londra. Lorenzo, benvenuto a 2024. Grazie, buon pomeriggio. Allora Lorenzo, partiamo proprio da un esempio per capire come anche la nostra mobilità può cambiare grazie a un'applicazione, a un servizio. Voi avete fondato Ubicabs un anno fa circa, o meglio, è operativa dal maggio dello scorso anno, poi prima avete lavorato sodo per proporre e creare questo progetto. Che cosa consiste, a cosa serve Ubicabs? Ma Ubicabs è un servizio principalmente mobile, basato su applicazioni iPhone e Android, che permette di migliorare la mobilità in ambito urbano soprattutto. E noi quello che abbiamo fatto è che abbiamo fatto partenariati con un centinaio circa di società di taxi, o piuttosto minicab a Londra, e che sono in genere società molto locali, e attraverso la nostra piattaforma permettiamo all'utente di prenotare dovunque a Londra in tempo reale una vettura, invece di dover chiamare varie società in ogni posto diverso. Quindi sì, c'è veramente il fattore tempo reale e l'ambito diciamo geografico molto allargato. Sì. Qual è il vantaggio principale rispetto a io che ho il numero di telefono della società o del taxi o del noleggio con conducente, in Italia si chiama così, tu ci hai detto che a Londra si chiama minicab. Ecco, il vantaggio di un'applicazione di questo tipo qual è, principale? Ah, il vantaggio principale è che dal punto di vista delle società di noleggio con conducente, o di soprattutto di minicab in Inghilterra, permettiamo di trovare dei clienti che sono più vicini ai loro veicoli disponibili, e quindi di aumentare l'efficienza operativa. Dal punto di vista del cliente, noi quello che facciamo è che diamo un prezzo in tempo reale, che quindi ovviamente facciamo un cerchiamo i prezzi che costano meno rispetto alle 100 società nel circuito, e soprattutto quello che facciamo è che utilizziamo i sistemi di rating clienti per scegliere questo, società migliori sul sistema di rating, e poi parliamo, perché questo è importante, cioè sul giudizio che il cliente, però mettiti nei panni del cliente, perché tu ti sei messo nei panni del tuo potenziale cliente, cioè la società che eroga il servizio. Io che sono, che devo trovare un'automobile in una grande città, quale vantaggio ho a usare un'app di questo genere? Ma il vantaggio è che noi, per esempio, a Londra abbiamo tra i 3 e i 4 mila veicoli. Se lei chiama una società di minicab normale, in media sono 50-100 veicoli. Quindi noi permettiamo al cliente di trovare un veicolo ovunque in modo molto più veloce. Invece di dover chiamare in ogni parte di Londra una società diversa, è un punto unico di riferimento dovunque si vada. E al di più, in realtà noi per ora siamo solo a Londra, ma l'applicazione inizia a funzionare al di fuori di Londra, quindi per la gente, per esempio, che si muove e che non vive solo nella sua città, ma che si muove per lavoro o per altri motivi, è un servizio unico che dà una garanzia di qualità, di rapidità e di servizio. Sì, comunque uno degli aspetti principali è maggior efficienza. Questo è sicuramente un tema interessante. Olivier Bremer è il responsabile per l'Italia, il country manager di BlaBlaCar.it. Olivier, benvenuto a 2024. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. In questo caso stiamo parlando di un servizio che riguarda sempre la mobilità, ma stiamo parlando di mobilità tra privati. Che cosa fa BlaBlaCar? BlaBlaCar è un sito internet che mette in contatto conducenti che hanno risposte libere in macchina con dei passeggeri. E quindi se io appunto viaggio per esempio da Milano a Roma in auto e ho appunto dei posti liberi, posso mettere un annuncio su BlaBlaCar e trovare delle persone che in cambio di un contributo alle spese di benzina e pedaggio viaggino con me. Quindi è un modo per ottimizzare tutti quei posti che vengono sprecati quotidianamente in auto, ma anche un modo per risparmiare, per viaggiare in compagnia, per fare nuove amicizie. Quindi se io decido che domani viaggio tra Catania e Palermo, posso mettere a disposizione un posto auto, oppure anche tutti i posti dell'auto, su BlaBlaCar? Sì, quindi dipende, ovviamente il servizio si rivolge più che altro a distanze dai 100 km in su, quindi per esempio Catania-Palermo sarebbe perfetto, abbiamo anche molti utenti proprio in Sicilia, che è una delle regioni del sud che funzionano meglio. Io conducente metto un annuncio su BlaBlaCar.it gratuitamente, e quindi grazie ai sistemi di messa in contatto sul sito riesco a ricevere contatti da altri utenti che piuttosto che prendere l'autobus, il treno, insomma, o altri mezzi di trasporto, preferiscono appunto viaggiare con me per ridurre i costi della compagnia. Adesso ci fermiamo per alcuni minuti, c'è la pubblicità. Questi sono due esempi di cui continueremo a parlare tra poco, ma gli esempi sono utili per poi trasferire queste esperienze anche in altri ambiti, perché anche in questo caso, ma vale in generale, chi ha orecchie per intendere intenda, e tutte queste dinamiche possono essere trasferite grazie proprio alla tecnologia digitale, alle applicazioni eccetera eccetera, in altri settori. Stiamo parlando di nuovi posti di lavoro, nuove società che vengono create. Il nostro numero verde è 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666, potete utilizzare anche Twitter e _Pagliarini è il mio account, oppure 2024_R24, anche la nostra pagina Facebook. A tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata, l'ultima parte di 2024 dedicata alla mobilità che abbiamo chiamato intelligente, grazie agli smartphone, ai tablet e alle applicazioni che nascono, o anche i computer e internet che collegano gli utenti. Torniamo a Londra. Abbiamo scelto Londra perché Londra sicuramente è forse il mercato, anche per dimensioni, ma anche perché in Gran Bretagna il mondo digitale ha una presa molto facile sul pubblico, molti utilizzano gli smartphone e internet, e quindi forse è più facile lanciare un'applicazione di questo genere. Non c'è solo Ubicabs, ci sono tante altre società che hanno lanciato applicazioni per trovare e cercare il taxi. Probabilmente nei prossimi anni non esisterà nemmeno più il concetto di radio taxi, non chiameremo più ma utilizzeremo solo l'applicazione. Un grande successo sta avendo MyTaxi in Germania, ma sicuramente la Gran Bretagna e Londra per utilizzo di queste applicazioni è il mercato più interessante. Qualche cosa si sta muovendo anche in Italia, lo abbiamo forse già detto 2024 che è arrivato dagli Stati Uniti Uber, che non riguarda il mondo dei taxi ma riguarda il settore del noleggio con conducente, anche se ci sono state alcune polemiche perché alcuni sostengono che Uber non rientri pienamente nella regolamentazione italiana, ma vedremo che cosa succederà se le autorità che controllano questo settore prenderanno provvedimenti. Ma il problema e il concetto generale non cambia. Gli utenti utilizzano gli smartphone e lo utilizzeranno sempre di più anche per fare questo. Capisco che magari chi abita fuori dalle grandi città sia poco interessato ai servizi taxi, ma come dicevo poco fa, stiamo parlando di una dinamica, un esempio che poi vale per tanti altri settori. Allora, Lorenzo Caffarri, volevo farti una domanda sulla tua, prima hai accennato il sistema di rating, cioè il giudizio che il cliente dà del guidatore, cioè del conducente dell'auto che prenota con il vostro servizio. Ci spieghi come funziona e soprattutto a che cosa serve? Come funziona è abbastanza semplice. Ogni volta che un cliente prende un taxi, prende una vettura, alla fine del tragitto chiediamo di dare un rating al conduttore e alla società che hanno fornito il servizio. Poi noi quello che facciamo è che ogni volta che c'è una prossima richiesta nel futuro teniamo in conto dei rating, di tutti i rating passati che la società ha ricevuto e il conduttore, per sapere a chi mandiamo la richiesta per primo. In genere per ogni prenotazione abbiamo 5-10 vetture o società che possono fornire servizio, e noi quindi, come un sistema un po' come eBay, creiamo una priorizzazione per dire quelle che forniscono servizio migliore ricevono la prenotazione e ricevono più prenotazioni. Il vantaggio è che per lo stesso prezzo il cliente ha un miglior servizio e in genere si tende a spingere verso l'alto la qualità del servizio dell'industria in generale, della società con cui lavoriamo. Sì, questo è molto interessante e molto importante. C'è chi dice viviamo nell'era del feedback e sicuramente il rating, beh, del resto chi usa eBay da anni, quindi non stiamo parlando degli ultimi anni, eBay è nata e funziona grazie a questo sistema, cioè io do un giudizio su chi vende un prodotto e grazie a quel giudizio che tutti danno quel venditore diventa affidabile. La stessa cosa vale in questo caso per la mobilità. Pensate che possa essere un mercato interessante anche l'Italia? Assolutamente, è un mercato sicuramente diverso da quello dal mercato inglese, in cui diciamo che il mercato è condiviso a metà e metà tra società di taxi e società di o equivalenti di noleggio con conducente, con un mercato molto più liberalizzato in termini di regolamentazione, il che ha permesso di fare 50-50, però il mercato della prenotazione taxi, anche radio taxi, è sicuramente un mercato che si adatta a questo tipo di applicazioni, per la semplice ragione che dal punto di vista cliente permette di avere delle vetture molto più velocemente, di avere la scelta dei veicoli che si desiderano e in generale di avere una più larga, importante efficienza dal punto di vista anche delle città di taxi. Quello che stiamo facendo, era interessante quello che diceva prima sull'open data, che noi abbiamo anche interfacce API e iniziamo già ad avere sviluppatori esterni che iniziano a utilizzare le nostre interfacce appunto per integrare i nostri dati sui veicoli, delle società eccetera in servizi esterni. Quindi qualcosa che permette di veramente di costruire, di avere dei servizi addizionali, non solo nell'applicazione di taxi indipendente. Sì, questo è sicuramente interessante perché mi sembra di capire che una delle cose che voi volete fare è creare una piattaforma attraverso la quale prenotare un'auto, così come già oggi accade per gli aerei e per gli hotel. Ci sono dei broker di, non so se chiamarli di secondo o terzo livello, che utilizzano tutti i servizi che esistono online, ad esempio per gli hotel o per gli aerei, per i voli, Da quelli si può scegliere il migliore e da lì puoi fare anche la prenotazione, una cosa del genere anche per le automobili, per i taxi, eccetera, eccetera. È esattamente quello che Ubicab sta facendo. Ubicab attualmente ha la sua applicazione mobile, ma abbiamo già fatto dei partenariati con altre società e forniamo i nostri servizi via mobile o via web. E quello che stiamo veramente noi facendo, il nostro cuore dell'attività, è di creare un servizio di aggregazione con informazioni in tempo reale per permettere a centinaia o nel futuro migliaia di società di taxi di accedere alle prenotazioni che vengono da clienti che arrivano via applicazioni mobile, siti web esterni, siti come le pagine gialle o cose simili, siti simili, e quindi di creare veramente una piattaforma che fornisce servizi in modo molto più molto aperto ed efficiente per tutte le parti coinvolte, il cliente che ha un servizio più trasparente dal punto di vista della qualità e del prezzo, e per le società che erogano il servizio naturalmente. E dall'altro lato. Bremer, per quanto riguarda la sicurezza di BlaBlaCar, perché naturalmente ci sono gli ascoltatori che dicono: ma come faccio ad essere sicuro utilizzando una piattaforma del genere, sia che io accetti qualcuno che utilizza la mia auto, cioè che viene ospite sulla mia auto per andare dalla città A alla città B, sia che io voglia un passaggio e quindi scelga di salire sull'auto di uno sconosciuto? Certo, su BlaBlaCar.it ci sono tutta una serie di misure di sicurezza proprio appunto per tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti, ma anche per essere in grado di informarsi prima sui potenziali compagni di viaggio e quindi in un certo senso di scegliere prima con chi si condividerà il viaggio. Quindi da una parte anche noi abbiamo un sistema di feedback dove appunto tutti quelli che viaggiano insieme si lasciano una recensione e addirittura per il conducente ci sono delle pagelle per valutare proprio lo stile di guida, no? Quindi se io viaggio in macchina con qualcuno voglio essere sicuro che sia un buon conducente, che rispetti le regole del codice della strada, che quindi non viaggi a velocità troppo elevate, eccetera. Sì. E inoltre abbiamo tutta una serie di monitoraggio dei profili, per cui la registrazione è innanzitutto obbligatoria, è obbligatorio verificare anche il proprio cellulare, quindi è come una verifica indiretta dell'identità. Quindi in caso di necessità tutti i movimenti sul sito sarebbero tracciabili, proprio perché appunto perché vogliamo garantire la sicurezza di tutti quelli che offrono o cercano un passaggio su BlaBlaCar. Sì. Adesso le faccio rispondere a Mirko, che ci chiama da Milano, che ci vuole parlare di BlaBlaCar nei confronti della legge italiana. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Stavo seguendo prima in macchina la trasmissione, adesso sono rientrato a casa. Ma sì, io volevo soltanto fare una piccola precisazione, che questo discorso del BlaBlaCar sarebbe bene, cioè non andrebbe contro la legge, se nessuno pagasse niente, cioè nel senso, siccome ogni macchina ha un tipo di immatricolazione, quella da noleggio e il taxi sono immatricolati da uso terzi e quindi sono al servizio di terzi. Le macchine normali, quelle che usiamo noi tutti i giorni, sono immatricolate ad uso proprio e servono ovviamente per soddisfare le mie esigenze personali, quelle della mia famiglia, quelle dei miei amici, sono da diporto. Ma nel momento in cui chi sale con me per affrontare un viaggio mi dà qualcosa in cambio, peraltro la legge non dice neanche denaro, fosse anche solo un ritorno pubblicitario. Scusi Mirko, però se io le do un passaggio allo stadio di San Siro, visto che siamo a Milano, sì. E lei mi dà 2 euro per pagarmi il gasolio, che problema c'è? Non è in teoria, in pratica non si potrebbe fare, perché la macchina in quel momento lì, la legge così dice, l'articolo 85 del codice della strage della strada dice così. Rudy, dice non ti posso accompagnare a San Siro senza niente. No, ha fatto bene a chiamarci, però... Le dico una cosa, è difficile ovviamente per le forze di polizia o le forze di polizia stradale. Ci sono degli altri problemi, diciamo così. Cioè, nel senso, accertare la violazione, perché dovrebbero avere la dichiarazione del trasportato che dice sì, io effettivamente per questo passaggio in macchina do qualche cosa a questa persona qui. Chiaro. No? Mirko, ha fatto bene a chiamarci perché è interessante. Adesso però sicuramente... Bremer può rispondere, sicuramente ci spiegherà, perché avranno affrontato anche questa questione. Io, diciamo, in questo caso insomma, mi sento di sponsorizzare sistemi di questo genere perché rendono tutto più efficiente, perché appunto io tante volte viaggio da solo e dico effettivamente il gasolio costa un sacco di soldi, l'autostrada costa un sacco di soldi, se ci fosse qualcuno che mi aiuta in questo viaggio farei a metà. Bremer. Sì, allora innanzitutto come dimostrato anche dall'intervento dell'ascoltatore che ringrazio, purtroppo in Italia c'è ancora molta disinformazione da questo punto di vista, perché effettivamente ci sono delle leggi che proprio incentivano il cosiddetto carpooling, quindi la condivisione dell'auto, e che prevede ovviamente anche un passaggio di denaro, insomma, perché non è che un collega dà il passaggio gratis e gli altri, insomma, viaggiano senza, cioè si fanno dare un passaggio così senza dare nessun contributo alle spese di benzina e pedaggio. Quello che è importante sottolineare, no, per tracciare la distinzione tra attività legale e attività illegale, è proprio l'ammontare della cifra corrisposta. Quindi se si tratta di un semplice contributo alle spese, quindi il conducente non ne trae alcun guadagno, è un'attività non solo perfettamente legale ma anche incoraggiata dalla legge. Quando si tratta di un'attività a scopo di lucro, ovviamente lì entrano in gioco tutte le norme in materia non ci si può guadagnare, insomma, assicurazione, poi anche la protezione dei tassisti, eccetera. Quindi su Danacar, proprio per questo, proprio per fare in modo che tutti rispettino le regole, abbiamo introdotto un tetto massimo alla cifra che si può chiedere. Quindi se io offro un passaggio, il sistema mi consiglia in automatico un prezzo che io posso alzare leggermente se ci sono dei motivi per farlo, ma non posso mai alzarlo sopra una certa soglia. Quindi per esempio Milano-Roma il prezzo consigliato è di 30 euro, io posso ovviamente abbassarlo se voglio abbassarlo, posso alzarlo ma solo fino a 45 euro. Sì. Quindi siamo nettamente, anche se io carico 3, 4, 5 passeggeri, siamo nettamente sotto i costi chilometrici dell'ACI, che sono un po' i costi che appunto sono quelli che io affronto effettuando il viaggio. Dunque, adesso ci fermiamo per un minuto, poi ho altre domande, così come molti dei nostri ascoltatori che colgono spesso nel segno e fanno delle domande molto intelligenti. A tra poco. 2024. L'ultima parte di 2024, volevo tornare a Londra da Ubicaps, da Lorenzo Caffarri. Lorenzo, un aspetto interessante è quanto questi servizi vengano utilizzati sia dai clienti sia dalle persone, quindi quanto le persone siano sensibili alla nascita e all'uso di questi servizi, ma anche quanto siano sensibili e utilizzino questi servizi le società di noleggio con conducente, nel vostro caso, ma in generale i taxi, eccetera, eccetera. Parliamo di Londra, poi questo poi vedremo cosa succederà in Italia. Sì, un aspetto estremamente interessante di questo tipo di piattaforme è che per il cliente ovviamente l'abbiamo detto, c'è il fattore trasparente, il fattore trasparenza, il fattore disponibilità. Questi sono i vantaggi, poi la gente li usa? Sì, assolutamente. Noi stiamo crescendo del 20%, circa l'anno scorso siamo cresciuti del 20% al mese, dei mesi anche di più, e ci sono, non siamo l'unica applicazione, ci sono altre applicazioni più orientate ai taxi, mentre noi siamo nel settore minicab, e le applicazioni orientate ai taxi hanno un successo molto importante, sono diventate ormai qui a Londra, ci sono un paio di applicazioni che veramente sono diventate sono entrate nell'abitudine. Come si chiamano queste applicazioni? Come si chiamano? Beh, c'è una che si chiama Elo, una che si chiama GetTaxi, che sono tutte e due, sì, sono le due più famose, diciamo Elo e GetTaxi sono Elo, famose, sono Elo, solo in sono assolutamente due applicazioni che sono nel centro di Londra, perché sono focalizzati nel settore taxi nel centro di Londra, sono diventate comunque qua, entrate nelle abitudini delle persone. Dal punto di vista delle società di taxi e dei taxisti c'è anche lì, da quel punto di vista, un'adozione molto importante, perché permette veramente di rendere le cose più efficienti in tempo reale e evitare di dover passare da società e società, diciamo, centri di chiamate di radio taxi, eccetera. Che in genere prendono delle commissioni e rendono il sistema un po' meno efficiente e più costoso per i taxisti. Quindi per Senta, i taxisti Lorenzo, un'ultima domanda, 30 secondi per concludere. Voi guadagnate solo sulla commissione? Assolutamente, noi prendiamo una piccola commissione su ogni prenotazione che è effettuata via nostro sistema. Bene, grazie a Lorenzo Caffarri, fondatore di UbiCabs a Londra. Quando arrivate in Italia fateci sapere, comunque fra poco alcune società internazionali arriveranno anche nel nostro paese. A presto e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Bene, concludiamo con Olivier Bremer per sapere una cosa interessante, perché mi pare che in questo settore, quello della condivisione dei viaggi, stiano nascendo molte start-up. Quali sono gli altri modelli che si stanno, non so se dire addirittura affermando, comunque che stanno nascendo? Allora, bisogna distinguere un po' tra quello che succede in Europa e quello che succede negli Stati Uniti. In Europa BlaBlaCar è il leader del mercato del cosiddetto ride sharing, quindi appunto della condivisione del viaggio. Noi abbiamo per esempio due giorni fa raggiunto la soglia dei 3 milioni di utenti iscritti e tramite il nostro portale sono già stati condivisi 2 miliardi di chilometri, quindi una somma che equivale a circa 50.000 volte il giro del mondo, quindi sono cifre che cominciano a diventare molto importanti. E negli Stati Uniti ci sono altri trend interessanti che stanno nascendo, più sul discorso del cosiddetto ride sharing dinamico, quindi dove la mediazione del passaggio avviene in tempo reale, però ecco, si tratta ancora di esperimenti appunto molto giovani, quindi che possono funzionare in occasione di determinati eventi, però la massa critica necessaria appunto affinché un servizio del genere funzioni è molto più alta rispetto all'attività di BlaBlaCar, dove è chiaro ed evidente, certo. È chiaro ed evidente che in un caso del genere, cioè se in una grande città si affermasse un servizio di condivisione dei viaggi tra la gente, è chiaro che quello andrebbe, sì, certo, in concorrenza forte con il mondo dei taxi. Sì, no, perché è ovvio che l'attività che facciamo noi appunto è un'attività alla quale il ride sharing mira è quello dell'ottimizzazione appunto dei posti liberi in macchina, però mai a scopo di lucro. Quindi Certo. Di vedere la domanda è se un conducente per, non so, 50 centesimi si mette a caricare delle persone per 2 chilometri, probabilmente no. Quindi io personalmente sono un po' scettico sulla possibilità appunto che il ride sharing riesca a veramente diventare un pericolo tra virgolette per i tassisti, perché i tassisti lo fanno per mestiere e quindi sono disposti a fare tutti i giri che il cliente vuole. I clienti privati, se non ne traggono un beneficio, perché questo appunto è vietato, ecco, ci sono magari gli incentivi economici potrebbero essere semplicemente troppo bassi affinché questa attività si sviluppi in ambito urbano. Sì, comunque diciamo che quelli che abbiamo dato oggi sono spunti sia per chi fa questo business, sia per chi fa altri business e può prendere spunto da queste dinamiche, ma anche per chi fa le leggi, perché da un certo punto di vista dobbiamo sicuramente tutelare alcune delle dinamiche che ci sono attuali, che ci sono attualmente sul mercato, a partire da chi fa per business, come dicevamo prima, il trasporto, il noleggio con conducente o i tassisti. Ma ci poniamo anche un problema: molte di queste leggi sono state fatte in momenti in cui tutte queste applicazioni, tutta questa tecnologia non era disponibile, e quindi forse in alcuni ambiti bisogna ripensare anche ad alcune leggi ed alcune regole. Bremer, se non vuole aggiungere... Assolutamente, poi anche, volevo dire, anche i tassisti stanno già beneficiando, no, in alcune città proprio di applicazioni di ride sharing, quindi per ottimizzare proprio gli stessi posti nei taxi, no, quindi le applicazioni di taxi sharing che si stanno sviluppando rapidamente in molte città. Quindi non è necessariamente, ecco, solo uno svantaggio per i tassisti, ma anche loro possono aprirsi appunto all'utilizzo della tecnologia. Esatto. Bene, io ringrazio anche Olivier Bremer, che è country manager di BlaBlaCar in Italia. A presto e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. C'era un po' di delay oggi con le nostre telefonate. Oggi devo dire che raramente abbiamo tutte le persone collegate al telefono, cerchiamo sempre di averle nei nostri studi, ma oggi è andata così. Il nemico è il telefono è un grande amico della radio, perché possiamo raggiungere chiunque e ovunque, ma è anche un grande nemico perché l'audio del telefono non ha fatto nessun passo in avanti, cioè si sente così, anzi direi che si sente peggio, giusto Rudy e anche Giorgio? Bene, io ringrazio Fabio Cantadori, che si è occupato della parte tecnica oggi in regia, anche Giorgio De Luca, che ci ha aiutato in regia assieme a Nicole al centralino. Grazie alle persone che ci hanno chiamato in questa puntata. Potete contattarci scrivendo una email a 2024@radio24.it. anzi annuncio, avviso, insomma, se avete applicazioni o sistemi che, visto che c'è un grande fermento in questo settore della mobilità, beh, servizi innovativi, non nuovi servizi che fanno cose vecchie, nuovi servizi che fanno cose nuove, segnalatecele scrivendoci a 2024@radio24.it. Ci potete contattare anche attraverso Twitter e anche attraverso Facebook. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile a breve all'interno del servizio podcast di 2024. A proposito del podcast, potete utilizzarlo anche grazie alle nostre applicazioni, sia per iOS, la nostra nuova, per Android e anche per Windows Phone. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.